Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Io ho un gruppo di ricerca formato da studenti e da studenti di dottorato e post dottorato, e la maggior parte di questi studenti alla fine o del dottorato o del post dottorato, se decidono di rimanere nella ricerca, generalmente vanno all'estero. L'estero ha rappresentato per me l'unica possibilità di continuare a fare il mio lavoro. Mi sono recata all'estero, in Inghilterra, a Newcastle, per continuare a svolgere delle ricerche. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. L'introduzione e copertina di oggi la dedichiamo a questa interessante inchiesta video sui cervelli in fuga dalla penisola, di cui avete appena ascoltato un breve estratto. Si chiama Italia 2014, ricercatori in fuga, e la trovate sul sito web della Repubblica. La frase della settimana è copyright del ministro della salute, Beatrice Lorenzin. Si parla sempre del rientro dei cervelli, comincerei a mettere in rete le menti italiane che abbiamo all'estero, creando un grande network di conoscenze, dice la Lorenzin. Domanda al ministro, quando si ricomincia seriamente? Qualcosa del genere è stato tentato dagli ultimi governi. Ricordiamo il portale Innova Italia, lanciato in pompa magna e ribattezzato il social network dei cervelli, progetto a dire il vero un po' agonizzante a distanza di 2 anni. Il Sole 24 Ore a fine maggio denunciava anche come il bonus ricercatori varato dal governo Monti nel giugno 2012 sia ancora impantanato nelle stanze del Ministero dello Sviluppo Economico. Perché sprecare l'occasione di un credito di imposta al 35% per l'assunzione di personale altamente qualificato? Due rapidi spunti di riflessione: solo il 9% dei componenti dei board delle società italiane quotate appartenenti al FTSE MIB è di nazionalità straniera. Nel settore dei servizi questo valore scende al 6%, lo rivela la Consob, un dato che sottolinea l'ancora troppo eccessiva chiusura della penisola verso l'estero. Rincara il Fondo Monetario Internazionale. L'Italia deve spingere l'acceleratore su innovazione e riforme strutturali se vuole competere. Il costo del lavoro, spiega l'FMI, diventa sempre meno importante per la competitività delle nostre aziende. Servono riforme per rimuovere le barriere alla crescita delle imprese e incoraggiare investimenti diretti dall'estero. Interesting. Intanto, mentre rimandiamo le soluzioni dei veri problemi, continuiamo a spedire i nostri giovani più innovativi oltre confine. Una città negli ultimi anni ha simboleggiato più di tutte questo esodo: Berlino. Dal sud al nord è molto molto forte come spostamento, poi dal nord all'est, diciamo, come percentuali penso che siano leggermente più basse, però negli ultimi 3-4 anni stanno crescendo in maniera vertiginosa, e me ne accorgo qui a Berlino che ogni mese arrivano migliaia di italiani. Giuseppe Colucci, 29 anni, è un community manager e start-upper a Berlino. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. La disponibilità dei laureati italiani a lavorare all'estero è pari al 48%, 14 punti in più rispetto al 2004, che sale al 50% per i laureati in materie linguistiche, ingegneria e architettura. Lo rivela il 16° rapporto Alma Laurea. Laureati che cercano dal lavoro in primis la possibilità di acquisire professionalità e subito dopo stabilità del posto. Nuovi dati sull'emigrazione italiana sono contenuti nel libro La Meglio Italia, le mobilità italiane nel XXI secolo, edito dal Centro Altra Italia. Maddalena Tirabassi, direttore del centro, ci riassume le principali novità. La prima cifra che siamo riusciti a raccogliere fondamentalmente riguarda i dati italiani, che si aggirano sulle 106.000 unità annue oramai, che è una cifra altissima che quasi ricorda gli inizi della grande emigrazione italiana a cavallo del 8-900. Abbiamo cercato però di verificare se a questi dati corrispondessero gli ingressi nei paesi di emigrazione italiana. Qui arriviamo al punto fondamentale, perché avete fatto appunto un confronto tra Italia e altri paesi. Cosa emerge da questo? È emerso, come peraltro ci aspettavamo, che cioè, gli oltre 100.000 italiani che risultano dalle nostre statistiche sono un numero molto maggiore, nel senso che se andiamo a vedere i singoli paesi di arrivo, solo nelle statistiche ufficiali loro le cifre sono molto più alte, per cui si può tranquillamente raddoppiare la cifra, tenendo anche conto che non tutti si registrano ufficialmente nei paesi di insediamento. C'è un caso emblematico tra questi paesi? Nel solo Regno Unito, nell'anno 2012-2013, ci sono state 32.800 richieste di codice fiscale che serve ad ottenere la tessera sanitaria e quindi a lavorare legalmente nel paese, ma noi sappiamo che c'è tutto un mondo che non lavora legalmente e che si trattiene all'estero per periodi non definiti. Impressionanti gli ultimi dati sulla disoccupazione giovanile, 46% nel primo trimestre dell'anno, un record secondo l'Istat, picco del 61 nel mezzogiorno, 739.000 giovani senza lavoro, crescono anche gli under 30 che non lavorano né studiano, i cosiddetti NEET, quasi 2,5 milioni. Intanto sono stati quasi 70.000 gli under 30 che si sono registrati all'iniziativa europea Garanzia Giovani nel primo mese di lancio. E sono 556 al giorno i posti di lavoro persi dal 2008 in Italia, un totale di 1,2 milioni di occupati in meno in 5 anni secondo il rapporto Confartigianato. La tendenza negativa è confermata anche nell'ultimo anno, quando sono stati bruciati 124.000 posti. La situazione peggiora per le under 25. Il mercato del lavoro italiano continua ad essere segmentato e caratterizzato da scarsa partecipazione, in particolare delle donne e dei giovani. È pertanto necessario dare seguito ai progressi compiuti, finora limitati, in conformità agli obiettivi della Garanzia Giovani, a scriverlo la Commissione Europea. In grande affanno non solo i posti di lavoro in Italia, ma anche gli stipendi. La crescita dei salari è sempre più fiacca. L'Istat ha registrato un incremento annuo nelle retribuzioni contrattuali orarie di appena l'1,2%, il peggiore da oltre 30 anni. E c'è tempo fino a giovedì per candidarsi alla seconda fase di Euroskills for Piedmont, progetto che mette a disposizione dei disoccupati under 35 residenti in Piemonte un'esperienza di formazione e lavoro di 3 mesi in un paese europeo. Tutte le info su enape.piemonte.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta fino a Berlino, nuova mecca degli start-up europei. Tanti sono i giovani italiani che hanno scommesso sulla capitale tedesca. Nome: Giuseppe. Cognome: Colucci. Età: 29. Città di origine: Brindisi. Studi: Scienze della comunicazione e Scienze politiche. Anno in cui ha lasciato l'Italia: 2010. Per andare dove? Spagna prima e poi Germania. Perché? Per conoscere. Quale lavoro svolge attualmente? Sono community manager di una startup tedesca che si chiama Startup Safari e co-founder di Startup Italia Jobs, una piattaforma che fa incontrare domande e offerta di lavoro nelle startup in Italia. Dove? A Berlino. Tornerai? Sicuramente un giorno tornerò. Quando? È difficile dirlo. Tedesco Sesh, I believe, ci credo. Oggi vivo a Berlino, continuo a lavorare per una startup tedesca, ma dedico molto tempo all'Italia, al mio progetto, all'analisi delle startup locali e all'evoluzione dell'intero ecosistema. Vorrei essere nel mio piccolo una sorta di vaso comunicante che apprende e trasferisce esperienza e conoscenza, che, trovandosi in un luogo dove i trend arrivano prima, possa fungere da spia, da informatore preferenziale, in attesa di tornare un giorno a casa. Giuseppe, così c'è scritto a Giovani Talenti. Allora, vedi in Italia concreti segnali di una volontà di innovare e cambiare da parte del sistema paese? È insomma ora di tornare a casa? Sicuramente dei segnali li vedo in alcuni punti, però non posso dire che il sistema paese si stia muovendo in questa direzione. Ci sono alcuni movimenti interessanti, come appunto il movimento innovatore, che diciamo però occupa ancora degli spazi di nicchia. Per quanto riguarda il tornare, guarda, dipende da cosa uno abbia in mente di fare. Io penso che in questo momento non sia il momento più florido per tornare in Italia, però magari in questo genere di momenti ci possono essere le migliori possibilità. La tua è una doppia emigrazione, come tanti giovani, dal sud al nord del paese e poi all'estero. Parti dalla Puglia trasferendoti a Milano, e anche i dati dell'anagrafe italiana residenti estero sembrano sottolineare un analogo movimento migratorio di massa, con le regioni del centro-nord ormai primo bacino di partenza degli espatriati. Noti anche tu la stessa tendenza? Sicuramente sì, tra amici e conoscenti la percentuale di giovani che dal sud si è spostata al nord per gli studi è sicuramente altissima. E poi dal nord all'estero? E poi dal nord all'estero anche, ovviamente dal sud al nord è molto molto forte come spostamento, poi dal nord all'estero diciamo come percentuali penso che siano leggermente più basse, però negli ultimi 3-4 anni stanno crescendo in maniera vertiginosa e me ne accorgo qui a Berlino che ogni mese arrivano migliaia di italiani. La tua è una storia un po' diversa dalla media che raccontiamo. Sono andato via non per scappare da qualcosa ma per sete di conoscenza, riassumi. Cosa ti ha portato 11 anni fa a Milano a studiare scienze e tecnologie della comunicazione? La mia passione per il giornalismo, volevo, quando ero bambino volevo fare il giornalista. Quindi ho deciso di andare a Milano perché pensavo che quello sarebbe stato il mio trampolino di lancio verso la professione, e in un certo senso lo è stato. Poi a un certo punto è cambiato tutto, ho fatto application per partire in Erasmus, sono stato accettato e, come nel film Sliding Doors, a volte prendi delle decisioni anche in maniera un po' incosciente che ti cambiano la vita. Tu tra l'altro per l'Erasmus hai scelto la Turchia, perché una scelta così anomala? Oltre al discorso di partire in Erasmus e quindi fare un'esperienza di studio all'estero, che poi spesso si trasforma anche in divertimento, cercavo una meta che fosse il quanto più esotico possibile, e quindi tra le varie mete dell'Erasmus, quasi tutte in Europa, la più esotica era sicuramente la Turchia. Turchia che è stato, dici, ci scrivi, il crocevia della tua vita. Proprio in Turchia entri nella dimensione del viaggio come esplorazione e stile di vita, poi torni in Italia, ti laurei e riparti. Il tuo voto complessivo alla nostra università? Il mio voto personale è abbastanza basso, e le ragioni sono le solite, un po' di disorganizzazione, specie nelle università pubbliche, e poi il fatto che l'università italiana penso che sia molto slegata dal mondo del lavoro, quindi si fa molta teoria e molta poca pratica. Ecco, senno di poi, meglio studiare e laurearsi direttamente all'estero? Io penso che un'esperienza all'estero sia sempre positiva, in ogni caso. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani immigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Giuseppe Colucci, 29enne community manager e startupper a Berlino. Giuseppe approda nella capitale tedesca, nuova mecca dell'innovazione europea, dopo aver vissuto in Turchia e Spagna. A muoverlo, più che un desiderio di fuga, la voglia di esplorare opportunità di crescita professionale a livello internazionale. A Berlino ha trovato un ambiente dinamico e innovativo, oltre che culturalmente molto aperto, ma Giuseppe a una riconnessione col sistema Italia. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Finisco un po' di fretta all'università, senza grande entusiasmo, lavoricchio per mettere da parte qualche soldo. Appena terminato vado a vivere in Spagna ed era il 2010. Hai mai anche solo ipotizzato un possibile futuro lavorativo in Italia? E se sì, perché l'hai scartato? Ma guarda, sicuramente sì, l'ho ipotizzato, anche perché ho iniziato a lavorare in Italia durante i miei anni di università. Poi ovviamente avevo voglia di fare delle esperienze all'estero per crescere, per vedere insomma il mio mondo da un'angolatura diversa, e quindi ho deciso di andare via. In Spagna tra l'altro resti solo un semestre, anche perché il paese iberico in quegli anni è all'apice della crisi, e ti si presenta un'opportunità a Berlino. Nello specifico di cosa si trattava, ma soprattutto perché decidi di trasferirti con la tua compagna nella nuova Mecca d'Europa? Siamo arrivati qui perché ho avuto un'opportunità di un internship in una ONG, quindi eravamo arrivati qui soltanto per stare 3 mesi. Poi alla fine sono rimasto in quella ONG per 1 anno e mezzo e mi sono occupato della mia vecchia passione per il giornalismo, e quindi ho avuto la possibilità di dirigere un blog di informazione, poi organizzazione di conferenze, marketing, un programma sulle relazioni culturali tra Italia e Germania. Dopodiché ti si apre improvvisamente il mondo delle startup, ti esplode davanti. La prima esperienza è con Plunge.com nel ruolo di country manager, e scopri un mondo completamente nuovo. Chi popola questo universo di aziende innovative a Berlino? È popolata da molti giovani con tanto talento e tanta ambizione. Poi spesso il talento e ambizione devono sposarsi con capacità di business, e non tutti ce le hanno. Puoi avere l'idea migliore del mondo, ma se non la sai mettere in pratica non va molto avanti. Per te però è solo l'inizio, perché dopo aver avviato un blog dedicato ai nuovi immigrati, torno subito, lasci Plunge e passi a Startup Safari. Ma il vero salto da startupper lo compi con un tuo progetto, condotto in porto con un amico, si chiama Startup Italia Jobs. Qual è l'innovativa idea alla base? Più che non è innovativa, penso si tratti di un'idea di un conforto utilità sociale che aiuta i giovani professionisti e le giovani imprese innovative ad incontrarsi per quanto riguarda il mondo del lavoro. Quindi mettiamo in comunicazione domanda e offerta di lavoro nelle startup. L'idea è nata dal fatto che in Italia pensiamo ci sia molta frammentazione all'interno dell'ecosistema startup, e quindi non ci siano dei veri e propri centri fisici in cui far convergere tutte le esperienze, anche dal punto di vista delle professionalità, e quindi abbiamo cercato di creare una piattaforma che potesse mettere in relazione appunto queste due realtà che spesso sono slegate e hanno difficoltà a comunicare. Uno sviluppatore che si trova in Sicilia e un'azienda che cerca una persona con quelle caratteristiche a Milano spesso non sanno di avere la possibilità di sposarsi, e noi vogliamo dare quella possibilità. Il primo mercato del lavoro online delle startup. Però secondo te cosa manca ancora all'ecosistema delle startup italiane per puntare ai livelli di Berlino o addirittura della Silicon Valley? Tanti anni, non si crea un ecosistema startup in pochi anni, non in 5, non in 10 anni. Quanto ritardo italiano nell'innovazione formazione dipende da ostacoli interni, nostri, magari anche culturali. Sicuramente l'ostacolo principale in Italia di cui parlano tutti è la burocrazia, anche se ultimamente diciamo si sta muovendo qualcosa per semplificarla per quanto riguarda le imprese innovative. Poi quello che manca secondo me è un po' di mentalità globale. Spesso in Italia tendiamo a concentrarci troppo sul nostro orticello e non ci rendiamo conto di vivere in un contesto globale. Domanda di rito, Giuseppe, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Secondo me una proposta concreta da cui ripartire sarebbe quello di consentire alle aziende di avere convenienza nell'assumere giovani, quindi dare loro sgravi fiscali in maniera tale da poter assumere più giovani. E poi penso la riforma del sistema universitario, prepararsi al mondo del lavoro già all'università. Ci raggiunge ora in linea Mattia Corbetta, membro della segreteria tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Mattia, 2084 startup innovative iscritte negli elenchi speciali delle Camere di Commercio al 26 maggio. Partiamo da questo dato. Si poteva fare di più o lo considerate un buon risultato? Lo consideriamo un ottimo risultato, considerando che è una policy giovane e sperimentale. Per le startup innovative, a favore di questa tipologia imprenditoriale, abbiamo introdotto una serie di agevolazioni, di incentivi di natura fiscale, burocratica, strumenti per l'accesso al credito, strumenti per agevolare gli investimenti in capitale di rischio davvero pionieristici. Le startup innovative vanno valorizzate, vanno apprezzate per la capacità di irrorare innovazioni di prodotto e di processo all'interno del nostro tessuto economico. Bisogna arrivare a creare un ecosistema, ne stavamo parlando poc'anzi con Giuseppe, l'importanza di creare un ecosistema come lo possiamo trovare a Berlino o in Silicon Valley, no? Assolutamente, un ecosistema in Italia c'è, il problema è che effettivamente gode di una certa caratteristica negativa, cioè una certa frammentazione, e ovviamente si tratta di qualcosa che sta nascendo, si tratta di qualcosa di incipiente, però gli attori ci sono e adesso godono degli strumenti, ma soprattutto di quelle condizioni di contesto adatte per poter lavorare e per poter sprigionare le proprie potenzialità. Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, le regioni con il maggior numero di startup innovative. Allora, i dati ancora non sono disponibili, ci state lavorando, però la tua prima impressione, qual è l'identikit tipo di questo imprenditore innovativo italiano? Le startup innovative sono sparse su tutto il territorio nazionale, da nord a sud, in modo abbastanza omogeneo. Chiaramente ci sono delle concentrazioni in alcune aree e, altra precisazione, le startup innovative sono attive in qualsiasi settore economico, quindi non solo ICT o digitale, che manifattura, anche artigianato, commercio, agricoltura. L'identikit, volendo fare una generalizzazione, probabilmente è quella di uno studente laureato o di una persona a volte con un dottorato di ricerca o un dottorando che magari ha colto una certa esperienza dal punto di vista accademico, per esempio molto spesso in una materia tecnico-scientifica, e decide appunto di fare uno spin-off delle proprie conoscenze acquisite e di trasformarla in un'impresa. Giuseppe, hai una domanda per Mattia Corbetta? Mattia parlava prima di frammentazione. Io sono convinto, e non soltanto io, che in Italia appunto manchi un hub startup che faccia convergere tutte le varie esperienze, servizi, infrastrutture, finanziamenti e professionalità. Milano si avvicina un po' a questa idea, ma penso che non sia ancora lì. Quello che volevo chiedere a Mattia è se è d'accordo con me e se sì, cosa possono fare le istituzioni per far in modo che questa cosa si crei? Io credo che le istituzioni possano fare poco perché emerga nel novero delle città startup italiane una città leader. Questo secondo me non è un dovere delle istituzioni, è un dovere del mercato. Insomma, sarà il mercato a dire quale sarà la città vincitrice nella startup competition che interessa il nostro paese. Però sicuramente che Milano si sta configurando, anche con riferimento ai dati sulle startup innovative, come luogo che fa registrare una maggiore densità. Da qui a 10 anni mi immagino un'Italia smart, un'Italia bella che faccia tornare i giovani andati all'estero perché è attrattiva, così ha detto il premier Matteo Renzi domenica. Mattia Corbetta, ce la potete fare anche prima o 10 anni comunque sono il tempo minimo? Guardi, una sfida molto molto grande. Io voglio subito fugare un misunderstanding, una mistificazione culturale. La startup non può essere l'unica ricetta, non può essere la panacea per risolvere il problema della disoccupazione giovanile, che si attesta ormai al 45%, però può essere uno strumento utile per le persone. Io credo che la policy stia già iniziando a generare dei risultati apprezzabili. Le faccio solo un piccolo esempio del potenziale dirompente che sulle startup ha. Le startup possono accedere al credito bancario con una copertura da parte del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dell'80% sulla somma, quindi quando la banca presta una startup innovativa rischia solo il 20% della somma. 100 startup su 2000 hanno fatto uso dello strumento per un totale, e questo è un dato sorprendente, di 46 milioni di euro. Questo cosa ci dice? Ci dice che esiste già una certa massa critica, che è un fenomeno ormai stabile dal punto di vista quantitativo e che quindi sta sprigionando degli effetti concreti, e da qui a qualche tempo potremo veramente misurarne anche le ricadute sul resto dell'economia nazionale. Grazie a Mattia Corbetta. E domanda di rito per Giuseppe Colucci: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Sicuramente io non consiglio di scappare mai, anche perché se andiamo via tutti qui i problemi non li risolve nessuno, però sicuramente fare esperienza all'estero è importantissimo. E poi un consiglio su tutti: se non c'è nessuno che ti offre il lavoro che vuoi, cerca di creartelo da solo. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Ottavo appuntamento con andata e ritorno, la rubrica che ci tiene compagnia ogni primo sabato del mese con due esperti di emigrazione e controesodo. Oggi l'andata di Aldo Mencaraglia si concentra su un'interessante ricerca realizzata per il sito Italians in Fuga sui fattori che favoriscono o ostacolano la fuga dall'Italia. Cinzia Castiglioni ha condotto in collaborazione con Italians in Fuga una ricerca sulle caratteristiche di italiani che sono emigrati e le differenze rispetto a coloro che invece non hanno materializzato il proposito di andare all'estero. In base alle risposte degli intervistati, Cinzia ha individuato alcuni fattori che favoriscono l'attuazione del progetto di salto verso una nazione estera. Innanzitutto deve esistere nell'aspirante migrante un misto di, tra virgolette, disperazione e di sogno. La presenza di uno solo di questi fattori fa sì che la motivazione risulti essere troppo debole per passare dalle azioni ai fatti. Aiuta molto la presenza di un evento critico che catalizzi le intenzioni fino a quel punto teoriche. Avvicinarsi alla soglia dei 30 anni, ad esempio, viene spesso utilizzato come scadenza entro la quale mobilitarsi con uno spirito di o adesso o mai più. L'avere le spalle coperte può fare una grossa differenza. Avere un lavoro che vi aspetta a destinazione aiuta ovviamente moltissimo. Magari si parte lo stesso, ma con un altro stato d'animo. Infine bisogna essere pronti sia psicologicamente che praticamente, avendo sistemato i propri affari in Italia, a cogliere la palla al balzo quando si presenta l'occasione, quando diventa tutto vero. Tutte le info su www.italiansinfuga.com, email italiansinfuga@gmail.com. E nel ritorno Lorenzo Pompei ci parla di un appello che il suo sito, la Fonderia dei Talenti, ha lanciato per non far morire la legge contro esodo. La Fonderia dei Talenti ha lanciato sul suo portale un appello per salvare la legge contro esodo 238 del 2010. Questa legge è stata disegnata per attrarre giovani talenti verso l'Italia, sfortunatamente va a scadenza il 31 dicembre 2015. Un disegno di legge è stato depositato in Parlamento dall'onorevole Vaccaro nell'aprile del 2013, ma a causa dei stravolgimenti della vita politica italiana non è stato dato seguito ai lavori alla Camera dei Deputati. La Fonderia dei Talenti cerca quindi di dare impulso a questa legge proponendo sul proprio portale un appello in maniera che tutti coloro interessati da questa tematica possano partecipare attivamente alla conversazione, dando il loro input, in maniera che anche l'Italia si attrezzi con una legge nella forma di attrazione dei talenti come controesodo, ma in maniera che sia un dispositivo permanente, come altri paesi, tra cui per esempio l'Olanda in Europa, hanno già fatto nel passato. Tutte le info su www.lafonderia.org, email info@lafonderia.org. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è abolire gli ordini. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Interactive. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di giugno: perché non abolire gli ordini professionali come primo passo per aiutare i giovani ad accedere più liberamente al mercato del lavoro? Quanto, secondo voi, l'eliminazione di questo residuo corporativo potrà portare anche chi non è figlio di a restare in Italia senza dover necessariamente emigrare perché non proviene dalla famiglia giusta? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it.